Avventurieri, l'arsura e la fatica cominciano a farsi sentire. È il momento di fermarsi per recuperare le forze. Davanti a voi appaiono tre oasi. Acque scintillanti, palme che danzano nel vento caldo. Ma attenzione, il deserto è un ingannatore esperto. Non tutte le oasi sono reali. Infatti, solo una delle tre è vera. Tocca a voi scoprire quale. Ecco le informazioni che avete. Oasi A. Temperatura più alta nella zona frontale, più bassa nella posteriore. Oasi B. Parte destra più calda, sinistra più fresca. Oasi C. Zona sinistra più calda, zona destra più fresca. Se il sole si trova a ovest, qual è l'oasi reale?